chi è che è? Capelli stucci. Ok, uscendo. Jean-Marie, sei basso di radio. E anche tu sei basso di radio, quello a Carino. Buongiorno comunque. Io c'ho. Aspetta, c'ho l'antenna bassa io, capito? Non è piazzata sul tetto. E ti ascolto basso. Ah, ecco dove è piazzata ancora. Vabbè, appena che c'è il tempo te la piazzi. Posso immaginare, ecco perché si bacio per quello, però riesco a capirti perfettamente lo stesso, capito? Lo so, sono anche in basso di... aspetta un attimo. Ti aumento un po'. Come ti arrivo adesso? Sì, Santiago 7, E la radio è 5 adesso. Segnale 7 e radio 5. Ho capito. Purtroppo c'ho l'antenna bassa bassa. È per quello ed è attaccata al muro. Secondo me non è piazzata l'altra. Ancora non ho avuto tempo, ho capito. Sto aggiustandomi la casa pure. Ho sentito questo bip forte che hai. Però la radio è bassina. Ho capito. Vabbè, là, proprio con quelli anche la piazza, per cui sei tranquillo, ma dunque riesco a capire abbastanza bene, per cui io non ci sono problemi, anche se c'è la piazza, ragazzi. Va bene, ugualmente, la salita. Ok, ci sentiamo, la salita, buon proseguimento, buona domenica. Ciao, ciao, Gian Maria, alle prossime, buona domenica. Su 10 CQ canale 10 c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10 c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10 CQ 10 c'è qualcuno? Avanti CQ canale 10 c'è qualcuno che ascolta? Avanti CQ canale 10, avanti. Buongiorno. Avanti, non ti ho riconosciuto, non so chi tu sia. Io vado dalla città di Potenza, tu dove stai modulando? Io sto modulando dalla Sardegna, dalla città di Sassari. Vabbè, comunque, va bene lo stesso, non c'è problema. Ah, dalla Sardegna, ho capito bene, città di Sassari. Sì, confermo. Ti ascolto bene. Io sono Paolo qui dalla città di Potenza. Oh, ti ascolto bene. Ok Paolo, anch'io ti ascolto bene. Santiago 8 e Radio 5 è perfetta, non c'è problema. La radio è abbastanza chiara, pulita. Grazie, positivo. Sto uscendo con un 48 qua, normale, tutto normale. Tu che apparato hai? Io ho un CRT omologato e dunque sto andando con 7-8 watt, 5 forse 5, non so di preciso perché non ho strumento attaccato, non lo so quanto, ma più o meno così. Ti ascolto bene, ci sono anche gli altri due amici sul canale stamattina, li riesci a ascoltare? Vai Mimmo, fa una prova, Mimmo. Ascolta l'amico? Sì, l'ascolto l'amico da Sassari, comunque sono il principe, dai, da Sassari io ti ho sempre sentito, ci siamo sempre ascoltati. Adesso vado liscio, non so se mi senti, buongiorno. Mimmo, forse hai detto dalla provincia di Lecce, non sei troppo basso di radio, non ho capito un granché, anche perché c'è un bel po' di QRM frequenza, per cui non è la faccia, mentre l'amico che ti ha dato il microfono lo sento chiarissimo, molto bene, proprio pulito. Avanti ancora l'amico di Lecce, se confermi che è così, Giulio da Sassari comunque, avanti. Sì, Giulio, io ti ascolto bene. Allora, l'amico qui, principe da Potenza, non lo ascolti bene, come mai, come mai? Come mai, non lo so, evidentemente le posizioni sono differenti da quella tua rispetto alla mia, evidentemente è così. Purtroppo la propagazione fa questi giochi qua. Avanti ancora Paolo. Ok, ok, mo passa l'amico di Potenza. Dai Mimmo, vedi, fatti un collegamento, vedi un po'. Paolo, scusa, dai, io interrompo, intanto l'amico non lo sento, lo sento troppo basso, non capisce, non si capisce quello che dice. Va bene Paolo, salutamelo tu l'amico, ho capito da te che si chiama Mimmo, però a lui io non lo sento, lo sento bassissimo, è tutto risolvato dal QRM. Ciao, grazie per il contatto, ciao Paolo, salutoni, salutoni anche all'amico Mimmo. Giulio da Sassari vi super saluta, grazie ancora per il collegamento, ciao. Ciao, ciao, una buona giornata, ciao, lo saluto io a Mimmo, ok, ciao. Comunque ti ascolto bene, bene, bene, da parte mia qua ti ascolto bene. Ok, alle prossime. Che ho mandato, hai messo vitamina, Mimmo. Si sento le vitamine? È positivo, arriva proprio scala qua, 9 su 30. Vabbè, poi amico di Sassari, sicuramente mi copierà, dai. Attenzione Sardegna. Vediamo un po', se posso aumentare qualche cosa. Ecco qua, Mimmo, basta che mi rompo un cazzo e smitterino qua, mi stai rompendo il smitterino. Veramente, mamma mia, allora vado forte, eh? Esatto, fondo scala l'angetta qua, non va più avanti. Ma dove fa allora? Va buona, attenzione Sassari, copi Sud Italia? Sì, adesso ti copio, benissimo Mimmo, hai aumentato abbastanza, solo che è troppo forte anche l'eco, comunque va bene, non c'è problema. Adesso Mimmo, ho il piacere di ascoltarti, se ero rimasto all'ascolto, avanti ancora Mimmo. Ok, niente, allora mo, aspetta, vediamo un po' di eco, di togliere un po' di eco, e niente, qua è un altro apparato, sempre a fianco, no? Con un'altra antenna. L'eco è molto forte, adesso va bene, ti ascolto benissimo, però l'eco per i miei gusti è troppo forte, però trasmetti come credi, non c'è problema, ok Mimmo? Va bene, aspetta che lo tolgo proprio, ecco, vado tutto liscio, come uno lo vuole io lo faccio qui, è tutto da mettere a posto. Sì, va benissimo, non c'è problema, ma per me andava bene anche prima, non c'era problema, io non sono uno di quelli che giudica l'operato degli altri, io sono contento di sentire e basta, poi come arriva va bene, però sono solo voluto non far notare per darti un controllo, ma niente di più, ma non perché mi dava fastidio a me personalmente, assolutamente no. Vai Mimmo. Ok, no, è questo il, ti volevo dire l'eco dell'apparato. Ecco, ma comincia a fischiare pure qua. E dell'apparato purtroppo non posso toglierlo, vedi, lo metto e non è un eco, questo è un reverbero. Ok, sì, va benissimo, mi metto una puntina anch'io così senti la differenza, ma proprio una puntina poco, vai Mimmo. Ok, il principe è sempre qui, dai, ci siamo sempre ascoltati, il principe è sempre da Potenza. Ok Mimmo, va bene, dai Mimmo, stavo leggendo un qualcosa di interessante sul giornale, ti saluto ugualmente, mi ha fatto piacere comunque averci ascoltato, ma poc'anzi del proprio basso del radio, arrivava il segnale di, anche di radio, ma bassissimo, che non si capiva perché era disturbato dal QRM della propagazione, ma adesso arrivi a bomba veramente. Ok Mimmo, grazie per il collegamento. Dai, Santiago 9 Radio 5 a bomba, ci sentiamo, ciao. Giulio da Sassari ti super saluta, a te e a Paolo se c'è ancora. Va bene, ciao, dai, non mi ricordo il tuo nome, comunque ok, nel senso con un altro apparato, con un'altra antenna purtroppo. Ciao, buona giornata. Ok, il mio nome è Giulio comunque, Giulio da Sassari. Ciao di nuovo Mimmo, alle prossime, grazie ancora per il contatto, ciao. Ciao Giulio, ciao, alla prossima, ciao. Ciao Paolo, grazie ancora a te, anche per il contatto con te. Ok, ci sentiamo, ciao Paolo. Allora ci siamo, io muovo discretamente oggi la situazione qua. Positivo Mimmo, va buono, esci bene. Ok, vediamo di farci qualche altro collegamento anche per provare questi apparati oggi, vediamo di trovare qualcun altro. Vorrei andare in FM, ma tu sai il difetto purtroppo. Sono passato poco prima in FM, ma non si sente nessuno per il momento. Oh, vediamo su un altro canale, aspettami qua. Va bene. C'è uno sul 20 qua. Che vogliamo fare? Passiamo sul 20? Mi sa che è la stessa persona che parlavamo prima. Non lo so, vogliamo passare, io ci vado sul 20, guarda. Comunque, no, Leo. Capito, andiamo con il nostro mondo in 5 minuti qua. Attenzione che nelle 10 c'è qualcuno che ci ascolta, dalla città di Potenza. Ma posti, vai come non si può fare. Ok. Vai bene Mimmo, vai bene. Ogni tanto bisogna farsi i lavoretti qui a Sardegna. Perché quello si fa da... Sai da quanto tempo li ho facendo? Almeno da 5-6 anni. No, ma mo esci buono Mimmo, esci buono. Almeno da parte mia qua ho 48, è semplice, ti ascolto bene. Non c'ha niente... Tu lo sai com'è, non deve niente né per preascolto, niente. Invece con l'altra parata ti riscatteremo meglio perché quello è già più moderno. Con quell'altra va bene lo stesso, ma avvicinano un po' di più. Ma no, ti ascolto bene Mimmo, tranquillo, ti ascolto molto bene. Ma c'è un poco uno, un poco neanche. Non c'è nessuno stamattina qua, vediamo un po'. Comunque se si sente la Sardegna, ma se ne sente pure qualche altra. Senti che sta chiamando lì. Avanti Nord Italia, avanti. Attenzione Brescia, si copre Sud Italia. Attenzione Sud Italia, si ascolti da nord della Sardegna. Sì, ascoltiamo tutto qua, buongiorno al principe, città di Potenza. Cappa Soltoni, Potenza, 6351, cooperatore Tango India, November Oscar col mezzo pesante, cambio. Ah, stai lavorando? Ok, noi sono in base fissa qua, con un altro amico siamo in collegamento, vai Paolo. No, negativo lavorare, vai, inizio ferie, mezzo pesante col camper, qua in giro. Sei col camper, va bene, buon divertimento, che voglio dire. Va bene, grazie Nico, vai, ci sentiamo alla prossima, ciao bello. Ciao da Potenza, un saluto qua da Brescia. Attenzione Brescia, me ne ascolto molto basso. Paolo, lo senti questo da Brescia? 0-0 Mimmo. E quest'altro che ha parlato adesso col camper, lo sentivi? Positivo. E sono tutte nella zona della Sardegna. Quello col campo lo sentivo bene. Mi ascolti? Chi è Brescia? No, chi è l'amico che mi ascoltava bene? Sono qua sempre io, Tino. Ah, Pino, no, ti copio. Ci sono altre modulazioni che stanno venendo tutto qua sul 10, va bene, io saluto tutti perché... vi saluto che sono qua sullo sulo 131, direzione Onusì, cambio. Ok, buona giornata, buona domenica, ci sentiamo dal Principe qui. Ciao Principe, ci si riascolta, buona giornata anche a te. Vai Paolo. Vado, l'ascolto l'amico, ma è basso da parte mia, l'ho ascoltato basso dalla parte mia, ok? Vai Mimmo, vai. Va bene, ok, siamo in collaborazione, siamo a 5 km di distanza con l'amico, facciamo i collegamenti insieme, ok? Vediamo un po' chi è che ci ascolta ancora, avanti. Dai, vediamo di parlare con qualcuno, dai, la città di Potenza qua, il Principe. Dai, credo che qua mi ascoltano tutti a fondo scala, perché ci ho messo 2-3 kW, vanno bene? Voglio, come gira qua? Vai buono Mimmo, vai bene, però non c'è nessuno che ti ascolta, non c'è nessuno, anche da qua non si sente nessuno. No, mi ascoltano, chi c'ha voglia di parlare mi ascoltano. Anzi, aspetta un po'. Va bene, cercherò di mettere di aggiustare qualcosa, ma è meglio che non tocco niente. La propagazione va bene stamattina, dai, andiamo, dai. Vediamo. Ecco qua, adesso va un po' meglio, dai. Fischiariello, avanti. Fischietto? Yeah. Fischietto, avanti. 10 avanti, chi ascolta la città di Potenza, qua il Principe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah, sto lavoretto che ho fatto l'antenna, servita qualcosa. Non fischia, va al massimo e vada al massimo. Esci bene. Chi è avanti? È tolto il 48? Sono sempre col 48 Mimmo, non ho cambiato ancora. C'è il bip come il tuo e c'è un'altra stazione come... non lo so, io sto col 48. Sei tu? Ma Paolo, non già visto questa macchina, Paolo, grazie. Sempre col 48, sempre con quello. Non so io che ho attaccato il preamplificatore d'antenna, va benissimo. Vediamo un po', facciamo chi c'è qualcuno che ci ascolta. Se, vediamo, città di Potenza, qui il Principe, va. Fammi provare un po' su in FM e poi ritorno qua se ne va, vado a un segnale. Thank you. che cambia il cavo qua, così dopo ci rendiamo con quell'altro. Mimmo! Buongiorno da Sassa di Cambio. Yeah. Ok, ciao Principe, buongiorno, ben alzato. Marino da Sassa, è un controllo per cortesia di segnale. Il tuo controllo è 9.15 alla radio Super 5, avanti Cambio. Siamo noi, siamo sempre. Ok Mimmo, buongiorno, buongiorno. L'amico come si chiama Mimmo? Ciao Paolo, buongiorno, 9 più 5 da Sassa, davanti Paolo, cambio. Paolo, vado in controllo, fammi una cortesia di segnale, cambio. Ottimo, ottimo segnale, ottima radio, Paolo, avanti. E ok, la preparazione sale e scende. Paolo, stai arrivando da 8 a 9, poi scendi nuovamente. Invece l'amico Mimmo, 9 più 15, sale e scende, abbassato un pochino. Bene, grazie dei controlli, io vi saluto, vai, da solo per un saluto da Sassari. Ciao ciao, grazie. Buon appetito. Grazie, tutto, ciao. Se ho mosso qualche